signori, ecco a voi Gigi D'Agostino. Questo è il mio cammino. Si sente? So many.

ci rende responsabili. Ci rende responsabili. Hai capito? D'Agostino, l'inventore del lento violento. Se qualcuno ci ha provato, l'inventore si è incazzato. E che mo ricordo io? D'amo che fa lento violento. E io vado, arrivato qui, ma che domanda mi hanno fatto? Presentalo tu, presentalo. Allora ti presento una canzoncina, una favola. Foca loca. Artista. Sa capì? Sempre lento, violento me. Thank you.

momento creativo. Il cammino di Gigi D'Agostino. Assaggio l'aperitivo. L'aperitivo di oggi è... Campana para vento.